vita può nascondere tutto quello che ora so. E non è un percorso facile, cambiare, crescere. Vita sa riprendere tutto quello che non ho. Giorno dopo giorno crescono le parole. Vita sa dipingere quadri astratti di realtà.